Smart Mobility, pillole di ecomobilità intelligente. Buon pomeriggio a tutti e bentornati alle nostre pillole di ecomobilità con Gringo. Qui Irene Papotti di Radio Città Fujiko e ho il grande piacere di avere con me Federico Angeli, il proprietario di Gringo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Irene. Allora Federico, tante domande, tante questioni da sviscerare. Io però parto con mia nonna. Vai. Non te lo aspetti, ma io sono parto pronto. Con mia nonna, a cui sono molto affezionata. Ma mia nonna su un monopattino ce la vedi? Ad attraversare. Non conosco tua nonna, però se è come le nonne con la N maiuscola che conosco io, assolutamente no. Aia. No, nel senso che, scherzo, il monopattino in realtà è per tutti, così come l'ecomobilità è per tutti. Sicuramente per quello che dicevamo la volta scorsa, siamo tutti più pronti a immaginarci su una bicicletta rispetto a un monopattino, per una questione proprio di baricentro del nostro corpo, che è più basso, quindi ci dà più stabilità e poi siamo a sedere. Però con questo voglio dire, il monopattino può potenzialmente essere guidato da chiunque. È chiaro che se parliamo dei nonni, quindi parliamo comunque della cosiddetta terza età, quindi persone che comunque magari hanno, per una questione puramente anagrafica, delle difficoltà di equilibrio magari superiori ai ragazzini giovani, piuttosto che sono mentalmente più predisposti a spostarsi in sicurezza che non in velocità, sicuramente la bici è preferita. Teniamo comunque a sottolineare che in realtà per la nonna ci sarebbe in Gringo uno strumento che non abbiamo citato, che è il quadriciclo elettrico, piuttosto che il discorso delle biciclette trike, quindi le biciclette quelle a tre ruote. Oggi le bici trike sono le cosiddette cargo bike, quindi quelle che tu utilizzi anche per il trasporto dei bambini a scuola o di merce, no? All'interno del vano cargo. Tu prova a pensare poi l'evoluzione di quello che una volta era solo la nicchia confinata ai campi da golf, cioè le cosiddette macchinette da golf. Ecco, in realtà questi produttori di macchine da golf oggi producono dei quadricicli che tu sono omologati per la circolazione su strada, e quindi tu mantenendo la stabilità delle quattro ruote come l'automobile hai però degli spazi di manovra nettamente pari a uno scooter, quindi addirittura sono anche targati come uno scooter. Però quello che volevo capire io, con una domanda che in realtà è partita come scherzosa ma sono veramente interessata, cioè una persona anziana secondo te è facile che riesca ad entrare nella mentalità dell'ecomobilità? Perché parlavamo a microfoni spenti del fatto che un anziano ha bisogno di una sicurezza non solamente a livello di stabilità, no? Ma di sapere di possedere il mezzo, per una questione proprio un po' di status, un po' di tranquillità psicologica, come dicevi tu. E quindi è difficile, no? Pensare per esempio a un anziano che viene da Gringo e chiede una consulenza per fare il suo girettino in giro per il centro ovviamente. Quindi mi chiedevo, secondo te, quali sono le tempistiche che si possono pensare o immaginare, prevedere, per far sì che si arrivi a una transizione completa che preveda tutte le fasce d'età con questo tipo di mentalità di car sharing, di ecomobilità? Guarda, in realtà ti stupirò con questa risposta, perché noi come Gringo abbiamo un pubblico molto vasto, cioè partiamo dai 14 anni, che è il limite minimo, no? Per poter condurre un velocipede, fino ad arrivare a quando te la senti, tra virgolette. E noi abbiamo clienti anche ultra novantenni che hanno abbandonato l'utilizzo del motorino perché magari gli è stata sospesa la patente e quindi non possono più guidare il motorino. Però ad esempio hanno convertito il motorino con un e-bike. Per sicuramente, ecco, da un punto di vista di transizione, l'anziano non riesce, tra virgolette, a capire sistemi di ecomobilità quali il car sharing o quali appunto l'utilizzo di un bene che sarebbe appunto lo strumento di mobilità, monopattino, auto che sia, di non tua proprietà. Però sicuramente l'utilizzo invece di prodotti quindi acquistandoli a questo punto, quindi andando incontro alla loro necessità mentale di preferire il possesso rispetto all'utilizzo, però chi compra un e-bike, chi compra uno scooter elettrico, chi compra un quadriciclo elettrico, assolutamente nella gestione poi dello stesso non ha problemi, perché è esattamente come caricare il telefonino, quindi certo, non ha problemi poi nella gestione dello strumento, è ecco magari preferire l'acquisto rispetto al noleggio. Certo, ma su questo ci troviamo, nel senso che basta minacciare gli anziani di togliergli la patente e la guida della macchina e gli dico: guarda nonno, c'hai 90 anni, non puoi più guidare la macchina, mo te tolgo tutto. Se vuoi continuare a mantenere la tua indipendenza e tutto quanto, vai da Gringo, vai da Federico, vai in via Bellaria, gli dici: guarda, mi hanno tolto tutto, non so come fare, devo andare alla boccia, alla bocciofila, e l'unico modo è che mi dai un consiglio. Quindi secondo me la transizione noi la possiamo diamo. Favorire, okay, tu sei perfetto. In grado, perché anche le sì, abilità sì. sociali ce le hai tutte. Ok, noi lo aspettiamo. Nonno di Irene, vienici a trovare, insomma, con la nonna anche. Grazie Federico, alla prossima pillola. Ciao.